Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Io sono convinto che l'umanità passi due fasi che spesso si alternano, spesso una prevale sull'altra, spesso vivono e convivono in apparente possibilità di commistione. Sono il tempo della spietatezza e il tempo del pensiero civile, della civilizzazione. Quando sopravvive il tempo della spietatezza, siamo tutti spietati. Conosciamo le leggi della spietatezza, sono i momenti di guerra civile, di crudeltà estrema, momenti in cui l'umanità sembra aver fatto un cammino a ritroso rispetto al proprio processo di civilizzazione. Oppure ci sono momenti che sono i momenti in cui non sono proprio le ere dell'oro, ma cui sembra che il processo di presa di coscienza di una mentalità moderna che tenga conto che la nostra umanità è un cammino che non è mai finito, non è mai terminato, un cammino verso una presa di coscienza dell'esistenza del nostro prossimo, del diritto alla vita, del diritto alla esistenza e alla civile convivenza di tutte le persone, tutte le popolazioni, al di là del loro censo, del loro aspetto esteriore, della loro zona di origine, del loro potere d'acquisto. I momenti più difficili sono quelli in cui dei residui, dei cascami del tempo della spietatezza cadono improvvisamente come un macigno in uno stagno nel tempo della civilizzazione. Uno di questi momenti è la vicenda che si sta svolgendo sulle cronache dei giornali proprio in questo momento, su ciò che si dovrebbe fare della salma di Erich Priebke. Il tema del corpo del reprobo è un tema abbastanza difficile da gestire, anche perché la nostra società sembra sempre disposta in fondo a avere una conciliazione anche con i peggiori reprobi. Ma esistono probabilmente reprobo, lo spiego per chi questa parola non avesse molta familiarità, per una parola un po' desueta, colui che in assoluto non ha diritto di pietà. È il disonesto per eccellenza, è quello che è destinato alla dannazione eterna. Il reprobo è colui che nelle rappresentazioni dell'inferno che vedete nelle iconografie più classiche sono quei dannati che stanno in mezzo al fuoco con i diavoli che gli danno le forconate, che da lì non usciranno mai. Questo è il reprobo. Difficilmente la nostra società civilizzata affibbia patenti di reprobo totale a delle persone, se non a coloro che ancora sono residui del tempo della spietatezza, in cui tutti eravamo spietati, in cui nessuno di noi va assolto, o parzialmente si assolvono soltanto le persone che hanno fortemente lottato contro il tempo della spietatezza. Erich Priebke è indubbiamente un reprobo, una persona su cui non si può fare nessun tipo di assoluzione. Questo è il giudizio che viene dato oggi dalla storia, dalla società. Il problema è che Centenario è morto in un momento molto particolare, in cui il nostro paese sembra preso e afflitto da moltissimi problemi di vario tipo e di ordine più disparato, in cui improvvisamente però appare lo spettro inquietante del corpo del reprobo. Cosa fareste voi del corpo di Erich Priebke? 800240024. Si sta svolgendo la questione su un piano prettamente irreale. Da una parte c'è questa sorta di rimpiattino a chi toccherebbe prendersi il corpo del reprobo per dare al corpo del reprobo quello che è, secondo un universale modo di sentire, il suo destino. Cosa si fa del corpo del reprobo? In altri tempi si dava in pasto ai cani, si tagliava a pezzi, si bruciava, si faceva scomparire, oppure veniva messo a monito delle popolazioni. Sarà un grande condannato, un grande giustiziato, ma ancora, guardate, nemmeno tanto tempo fa, si parla di un secolo e mezzo fa, venivano posti ai limiti del ponte di Castel Sant'Angelo i corpi dei mazzolati, dei tagliati a pezzi, di quelli che lo Stato Pontificio decideva che fossero dei reprobi, la cui giustizia, l'essere giustiziati, deve essere posto di fronte all'attenzione della popolazione generale. Poi ci siamo in tempi diversi, siamo in un tempo che perlomeno viviamo, siamo orgogliosi di vivere il tempo della civilizzazione. Quando ci riappare un fantasma del tempo della spietatezza non sappiamo che farne. E poi naturalmente è un problema reale da gestire. Il corpo del reprobo è comunque una reliquia negativa. E quindi il timore che se il corpo del reprobo venga comunque accolto da una pietà che non guarda più in faccia a quello che è stato, ma guarda soltanto la pietas per una salma, potrebbe diventare un luogo di culto, e si teme che il male che ha rappresentato quel corpo possa comunque rinsaldarsi attorno alla reliquia, come la santità, come le virtù eroiche di un santo cementificano la pietas e la fede di chi crede in quello. O poi c'è una sorta di gioco delle parti, c'è chi dice in fondo è stato un soldato, merita comunque rispetto, che è stato leale fino in fondo al suo mandato, chi dice è stato un terribile criminale, ma su questo non voglio parlare, voglio dimenticare per un istante chi sia stato Erich Priebke, di cosa sia stato responsabile in prima persona, voglio soltanto che voi mi rispondiate oggi, nel momento in cui siamo orgogliosi di vivere nel tempo a civilizzazione, cosa facciamo del corpo del reprobo? 800240024. Non mi risulta che la curia abbia negato i funerali, dice il suo avvocato. Ci rivolgeremo alla curia o alla parrocchia di Priebke, ma sono pronto a celebrarli anche in strada. Qui non li faremo, ha già fatto sapere il parroco di zona, quartiere Aurelio, dove il criminale nazista era agli arresti domiciliari. Una cosa però è sicura, nessuna cerimonia solenne per il boia delle fosse ardeatine, assicurano questura, prefetto e sindaco di Roma. Ignazio Marino parla di oltraggio a una città antinazista. La comunità ebraica lo ringrazia e lo stesso fa con il Vaticano, che potrebbe impedirne le esequie per pubblico scandalo. Le fosse con i loro 335 martiri non sono solo una questione ebraica, dice il rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni. Giuseppe Marcenaro, buongiorno. Buongiorno. Ricordo che Giuseppe Marcenaro è un giornalista, un saggista, autore di Cimiteri, Storie di rimpianti, di follie, edizione Bruno Mondadori 2008. Ma ci sarà pure posto qualcuno in passato un problema simile a quello che stiamo attraversando adesso? Il corpo del reprobo, dove veniva messo? Ce ne sono stati dei cattivi cosmici anche nel passato? Beh sì, ci sono stati, ad esempio, tanto per fare un... per essere affini a Priebke, i giustiziati di Norimberga sono stati tutti cremati e le cenere poi sono state gettate nel Danubio. Questa è una cosa. Poi i francesi avevano risolto in un'altra maniera: dove finivano tutti coloro che venivano giustiziati con la ghigliottina? Questo nel Novecento, diciamo, gli altri, come uno può immaginare, finivano in fosse comune. C'è nel cimitero di Versailles una sezione dedicata ai giustiziati per la ghigliottina, tra questi anche Landru. E la famiglia, siccome aveva vergogna, non ha messo nemmeno la lapide, quindi è più reprobo di quello, non c'è. Ma cos'era, una zona sconsacrata all'interno del cimitero? Ma guardi, io non parlerei di consacrato o sconsacrato, è all'interno del cimitero, perché sa, a questo punto, se parliamo anche di consacrato e sconsacrato, dove mettevano gli attori? Perché erano considerati delle persone non degne di entrare nel cimitero, li seppellivano fuori del cimitero. E qual era la ragione per gli attori? Perché erano assimilati a dei criminali? La ragione degli attori è molto semplice, perché non erano mai la stessa persona, erano tutte persone, ma non si sapeva magari se la loro identità era quella giusta. Le pensi, per paradosso, oggi chi sta in un social network dovrebbe subire la stessa sorte? Assolutamente sì. Grazie Marcenaro, comunque è stato interessante capire che il problema ci si poneva in passato. Sempre posto il problema dove mettere, diciamo, il defunto come scarto dell'umanità, però a questo punto io mi domando qual è il problema per Priebke, perché un corpo morto è comunque un oggetto e non lo santificherei in questa maniera. Il problema è proprio che non diventi un oggetto di culto, questo tema. E infatti è che non diventi oggetto, bastava cremarlo e lasciare che le ceneri portasse via il vento. Penso sia un problema però di autorizzazione alla cremazione. Lo so, però a un certo punto gli argentini non lo vogliono, a Roma non lo vogliono, che se lo prendano in Germania, ma in Germania cosa gli fanno? Il mausoleo? No, non credo proprio. No, la cosa che mi ha colpito soprattutto è questa, è la decisione del vicariato di Roma che, siccome non si è pentito, non ha diritto a entrare in chiesa. E lei conosce precedenti in quanto esperto di questioni cimiteriali? Gli altri non pentiti? Ma esperto di questioni cimiteriali proprio non saprei, ma sa, i suicidi non li portavano in chiesa, fino a un certo punto. Quindi, diciamo, erano ugualmente persone che erano state violente contro se stesse, per dirla in maniera dantesca. No, io sopra peggio. Si erano impossessati di una vita suicidandosi che non apparteneva a loro ma al Signore. Vedo che il problema comunque poi prenderebbe anche altre derive. Grazie Mercenaro. Una deriva prossima. Teologica. Arrivederci, arrivederci, buona giornata. Arrivederci. Pripke era un fedele ed ha diritto al funerale, dice il suo legale, che cita i patti lateranensi, quelli che nel 29 firmò Benito Mussolini, ma che in realtà non disciplinano nel dettaglio le esequie religiose. A farlo è il diritto canonico, articolo 1184, in base al quale non è possibile celebrare le esequie che destano scandalo nei fedeli quando a morire è stato qualcuno che non ha dato alcun segno di pentimento, quel pentimento che Pripke non ha mai avuto. Diritto canonico che potrebbe lasciare in ogni caso margini di possibilità. Il suo legale continua ad insistere che lunedì arriverà il certificato di morte e i funerali si terranno martedì, proprio alla vigilia di una data che non si dimentica, 16 ottobre 1943, 70 anni fa, quando 1259 persone furono rastrellate nel ghetto di Roma dai militari della Gestapo. Certo, 800... se ci vuole essere un segno di fatalità... È morto proprio nel momento in cui poteva dare maggiore imbarazzo, preoccupazione, proprio la sua morte, anche la sua dipartita. Fra le tante vicende vorrei aggiungere una mia riflessione personale. Andate a visitare un cimitero in una delle nostre città, queste orrende discariche per rifiuti umani che ci sono alle periferie delle città, per far capire quanto oggi realmente ci sia ancora il senso della pietas di un cadavere, quanto ormai facilmente diventi una sorta di problema di polizia funeraria il seppellimento di una persona. È chiaro, c'è un forte rimosso ideologico, politico, cose che mai sono state giustamente profondamente elaborate attorno al corpo di Pripke, sennò sarebbe abbastanza semplice la vicenda, come abbiamo sentito. Il corpo del re proprio comunque aveva una sua destinazione. Qualche suggerimento degli ascoltatori: lo brucerei, lo butterei nella fogna, mi sembra giusto, dice Roberto. Venga seppellito in Germania, il luogo che gli ha dato i natali, dice Giancarlo. A Venezia la casa del boia è isolata da tutte le altre, nessuno vuole stare accanto alla sua abitazione. Il boia però in quel caso svolgeva una funzione di diritto approvata. Sì, era uno sporco lavoro, ma qualcuno doveva farlo, non è esattamente la stessa cosa. Poi la fantasia del pubblico, e quindi mediamente la fantasia degli italiani, non ha limiti se suscitata in questa direzione. Lo brucerei nella pubblica piazza davanti a coloro che per sua mano hanno sofferto per anni. Marco da Firenze. Riappare e riaffiora questo nostro spirito arcaico e feroce anche nel momento della civilizzazione, ma però è comprensibile. Io registro soltanto, non faccio giudizio. Seppellirei all'interno di un campo di concentramento, dice Lucia. Non ci siamo fatti problemi al tempo dei funerali di Pinochet, dice Mauro. Cremarlo e consegnare le ceneri all'avvocato, dice un altro ascoltatore. Seppellitelo dove è nato, dice Giuseppe. Bruciamolo in una discarica dei rifiuti di Tel Aviv, dice Giusi. Esiste anche nella destinazione delle ceneri del corpo del reprobo una grande creatività. Ci sentiamo tra un istante. 800 24 0024. Che fareste del corpo di Erich Priebke? Melog. Cronache meridiane. La domanda di oggi è: cosa fareste voi del corpo del reprobo? Il reprobo è colui che è destinato alla dannazione eterna, colui per cui non esiste possibilità di sconto, di perdono, di pietà. In questo momento, a tutti gli effetti, nella lettura generale ufficiale, questo è Erich Priebke. La storia con lui ha chiuso i conti e in questo momento però si pone il problema del suo corpo. Strano, in un momento di così spietata laicità nei confronti delle seppellimenti, in cui tutta l'elaborazione rituale di un lutto è scomparsa, improvvisamente attorno a un corpo che diventa simbolo a questo punto di una vicenda mai perfettamente elaborata nella nostra coscienza nazionale, che sono le leggi razziali, che sono il fascismo, che sono la guerra civile in Italia, improvvisamente questo apre una grande polemica. Ma io voglio sentire esattamente cosa ne pensano le persone che ci ascoltano, che sono un significativo campione dell'umanità del nostro paese. Carlo, buongiorno. Buongiorno a lei. Cosa farebbe lei del corpo del reprobo? Ma una cosa, prima di tutto, buongiorno signor Nicoletti, a lei e ai suoi ascoltatori. Allora, prima di tutto, visto e considerato che lui è di provenienza, anzi tedesco, io farei una cosa molto semplice. Lo carico su un vagone dei poveri, diciamo, deportati ebrei, in cui lui andò a procurarsi poi quei 5 in più che erano destinate alle forze ardeatine, incartato in una carta di giornale e spedito alla signora Merkel in Germania. Quindi comunque, Carlo, lei immagina una sorta di ritualizzazione anche, diciamo, della destinazione ultima. Vorrebbe dare un significato simbolico anche alla morte, quindi metterlo in un vagone che è servito per la deportazione ai campi di concentramento, esatto, avvolto nei giornali, e mandarlo a Pribic. Chiaro. Sebastiano. Signor Rigoletti, ho piacere, grandioso piacere. Sì, ma andiamo al punto, abbiamo pochi minuti, siamo molto corti. Quindi Volevo suggerire questo: poiché Kappler lo fecero scappare e se ne andò in Germania, adesso questo qui noi lo accompagniamo in Germania e dimostriamo di essere civili oggi per allora. Quindi non dobbiamo fare altri ragionamenti, per me. Dobbiamo accompagnarlo con tutta la dovuta attenzione in Germania, lì poi rimane e se la vedono loro quello che vogliono fare. Quindi lei è giusto quello che dice il sindaco Marino, che dicono un po' tutti, seppellirlo a Roma sarebbe proprio uno sfregio, un oltraggio a quello che ha rappresentato Roma. Ma Kappler se n'è andato vivo, quindi l'hanno fatto fuggire. Beh, l'ha fatto scappare. Questo qui lo accompagniamo noi. Va bene, anche lei propone, diciamo, un accompagnamento rituale, come diceva l'altro ascoltatore, o semplicemente un accompagnamento civile, senza fare giornali, senza fare, si prende in un vagone giusto e si porta in Germania, si consegna al governo della Germania. Bene, Laurino, buongiorno. Buongiorno. Lei cosa farebbe del corpo del reprobo? Una parola che per me è difficilissimo da pronunciare, però sì, l'affronto. Hai ragione. No, io essendo un cattolico, diciamo, dal punto di vista religioso, io credo irreale o surreale tutto quello che sta succedendo. Per cui io sto benedetto corpo, che è un corpo come tanti morti ogni giorno abbiamo nel... Parlo sempre dal punto di vista della Chiesa Cattolica, che tra l'altro non capisco perché ha preso le... Dica lei, cosa ne farebbe? Non giudichi gli altri. Io lo prenderei e farei la tumulazione tranquillamente come qualsiasi altra persona. Dove? Al cimitero, se lui c'ha un loculo, avrà un posto dove... No, figo, ci sono tante già persone che hanno offerto tombe, perché è chiaro che c'è un significato ideologico e politico attorno a questa tumulazione. Diventerebbe il pellegrinaggio di tutti i nostalgici del nazismo. Ma sì, come tanti altri nostalgici, in fin dei conti si sono persi poi per... Lei dice dovremmo avere una forza e una sicurezza della nostra civilizzazione acquisita, dovremmo fregarcene anche di questo. Luigi... Guardi, secondo me, Nicoletti, la comunità deve sempre avere pietà di tutti. Allora, c'è un cimitero a Capomezia, in provincia di Roma, dove ci sono seppelliti solo i nazisti che hanno combattuto nella Seconda Guerra Mondiale, che probabilmente si sono macchiati di parecchie colpe. Beh, quelli sono soldati, però non sono indicati, cioè la storia non li ha segnati, sono nomi sconosciuti. Lei deve pensare il portato emotivo, questo è... Sì, ma sicuramente c'è un illustre 335 morti sulla coscienza, sì. Sì, ma c'è un illustre precedente della storia, no, che sta a Predappio. E tutti gli anni ci sono le celebrazioni a Predappio, ce ne sarà qualcuna in più a Pomezia, ma la civiltà merita questo ed altro, soprattutto la comunità. No, lei, Luigi, dice una cosa che condivido, però bisognerebbe non aver paura nemmeno dei foschi rituali nostalgici, e lo facciano, buon per loro. Questo mi sembra, vedo, sono già due telefonate, sono in questa linea. Abbiamo forse paura di qualcosa che non riusciamo a gestire? No, non dovremmo riuscire a gestire. Lo seppellisci, poi chi vuole andare lì a fare il saluto nazista, a rendergli omaggio, lo faccia, si renderà ridicolo nei confronti di un giudizio generale della storia. Tano, buongiorno. Sì, buongiorno. Io non capisco tanta ipocrisia da parte dei cattolici che non li vogliono fare la cerimonia. Li hanno protetti da vivi, che li proteggano anche da morti, lo sottraino in Vaticano e via. Io sono argentino, so benissimo tutti i scappati, i nazisti che sono arrivati in Argentina con passaporti vaticani. Ci sono decine di libri di storia che parlano di questo. Mengele, Eichmann, hanno fatto quello che hanno voluto, sia in Germania, dopo sono scappati in Argentina, protetti dal Vaticano. Che lo tengano in Vaticano. Buongiorno. ha detto il suo parere, Tano, si è espresso, ha detto cose su cui, ahimè, non c'è nulla da dire, storicamente ha detto cose giuste. Eichmann infatti era stato tumulato a suo tempo, è diventato luogo di pellegrinaggi, quindi lo bruciarono e le ceneri le dispersero. Agnese. Sì, sono io, mi dica. Cosa ne farebbe lei del corpo di Erich Priebke? La sua idea qual è? La mia idea è che il corpo è un oggetto. Per i credenti il corpo non vale più niente. Quindi, per i credenti no, per i credenti per attendono i credenti, la risurrezione corpo, della carne. No, per i credenti è l'anima che conta. No, Agnese, scusi, io sono l'ultimo delle persone che può dare per un credente il corpo al suo valore. Il corpo è... attende la risurrezione della carne. Se lei è credente, ma deve credere nella risurrezione della carne, sennò comunque non è credente. Altrimenti la Chiesa non permetterebbe la cremazione, quindi comunque la vogliamo mettere. Io penso che il corpo abbia pochissima importanza, quindi chi giudica soltanto per i credenti è soltanto Dio, che è giusto giudice. Quindi questa diatriba che è nata... Ma lei ha una sua opinione, ce l'avrà, scusi. Ce l'ho l'opinione. Io dico che il corpo si dovrebbe cremare, dargli onorata sepoltura, perché malgrado tutto è un uomo, quindi questa umanità... Onorata è una parolona, dagli pietosa sepoltura. E allora buttare nel Tevere le ceneri di Priebke. Questo voglio dire. Beh, bruciarlo e buttarlo nel Tevere, esattamente l'antitesi di quello che temono dal sindaco di Roma alle varie comunità, che diventi qualcosa assorbito, incorporato in una città che ha molto sofferto per colpa sua. Grazie Fabrizio Intonti, grazie Valerio Rocchetti. Abbiamo dato voce alle persone.